Eccoci, eccoci, Radio Wombat, la fuga del gatto, ovviamente l'avete riconosciuta dalle notine del clavicembalo di Domenico Scarlatti. 19:25, un ritardo abbastanza imponente, ma mi perdonerete, d'altra parte c'era un diluvio, c'ho tante scuse, insomma, con cui mi posso far perdonare. Tra l'altro sono in solitaria, non c'è neanche la mia gatta preferita qua a farmi compagnia. E sono da sola, mi sono dovuta un po' barcamenare in questo freddo. Oltretutto, lo noterete, sono abbastanza senza voce. Quindi, proprio perché vi voglio bene, cari wombati e care wombatesse, che sono qui a tenervi compagnia con questa voce fioca, insomma, dovete aver pazienza. Però mi farò perdonare per tutte queste mancanze con una puntata, spero, abbastanza interessante, che riguarda Girolamo Frescobaldi. Già dire Girolamo, ecco, mi sarei potuta incartare. Ecco, Frescobaldi, detto anche Gerolamo Frescobaldi, ma per gli amici Girolamo, è un compositore, come sapete ormai ve lo immaginerete, ovviamente barocco, ovvio, ovvio. D'altra parte lo sapete, se mi lasciano da sola io questo poi sempre lì finisco. Compositore barocco, diciamo del primo barocco, e organista in particolare e clavicembalista, ma poi lo vedremo non soltanto, insomma, ovviamente la musica strumentale di Frescobaldi è poi quella un po' più importante, un po' quella più conosciuta anche, ma anche alcuni brani cantati, insomma, sono notevoli e poi ve ne daremo conto. Allora, iniziando un po' dalla vita, anche se come sempre purtroppo le notizie non sono tantissime e le cose, i dati biografici riguardo a Frescobaldi non sono milioni, mi rifaccio un po' alla triste Wikipedia perché non è che in giro proprio si trova moltissimo su di lui. Nacque e passò la giovinezza a Ferrara, un ferrarese, e in una Ferrara dove al tempo c'era, insomma, un bel fermento, era un po' il centro del mondo, o perlomeno uno dei centri del mondo, sicuramente uno dei centri d'Europa e sicuramente uno dei centri d'Italia, almeno dal punto di vista musicale, ma poi, insomma, ovviamente non solo. Era famosa, importante Ferrara per la scuola musicale in particolare. Stiamo parlando, non l'ho ancora detto, di che periodo storico. Siamo tra la fine del 500 e diciamo la prima metà del 600. La scuola musicale di Ferrara è molto importante e aveva attirato per la sua, boh, per il suo interesse, per quello che aveva da dire, molti importanti compositori e musicisti, tra i quali Desprez, di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata della Fuga del Gatto, Willaert anche. E c'erano musicisti che non solo erano passati di lì, ma si erano proprio un po' stabiliti, c'erano stati in pianta stabile, Alfonso Della Viola, Agostini, e poi soprattutto le dame celebri che formavano il concerto del Duca d'Alfonso d'Este, che anche detto l'ensemble delle dame, che boh, insomma, poi diventò molto famoso e molto interessante, formato da tutte donne che cantavano e appunto interpretavano brani scritti apposta per loro, ma anche Luzzasco Luzzaschi, che fra l'altro fu il maestro di Frescobaldi. Passarono di lì anche Costanzo Porta, Luco Marenzio, Claudio Merulo, ma anche John Dowland, per tornare un po' fuori dall'Italia, Jacques Devert, Orlando Di Lasso, insomma un bel po', tra cui anche, poi lo vedremo, Giulio Caccini ovviamente e Claudio Monteverdi. Insomma, un po' il fulcro della questione, almeno uno dei. E Frescobaldi Frescobaldi era appunto in questo ambiente, in questo milieu, e in qualche modo è riuscito a inserirsi non male. E come era tipico di quel periodo, ma non solo, insomma, di quei secoli, insomma, ci si doveva un po' fare amici dei potenti per poter essere in grado di comporre e avere i soldi per farlo, e soprattutto poi veder eseguiti i propri lavori. Quindi ottiene la protezione del marchese Enzo, che era il figlio di una cantante molto famosa al tempo, che si chiamava Isabella Bendidio, che cioè, non fate battute stupide, e quest'uomo, che era un po' il protettore, almeno all'inizio, di un Frescobaldi molto giovane, tra l'altro, divenne una figura influente nel campo musicale e anche nel teatro, e anche perché divenne molto amico del fratello, no scusate, sì, cioè in realtà insomma era un personaggio abbastanza inserito, amico di altri potenti, cardinali e quant'altro, quindi insomma diciamo che Frescobaldi fece una mossa intelligente. Frescobaldi nel frattempo inizia a imparare, insomma porta a frutto lo studio dell'organo e del clavicembalo, e divenne famoso per la sua bravura particolare, in particolare per l'organo, e Battiferri, che era un suo contemporaneo, lo soprannominò il mostro degli organisti. Poi lo vedremo, insomma, la musica per organo di Frescobaldi è particolarmente interessante. Nel 1598, in mancanza di figli legittimi di Alfonso II d'Este, Clemente VIII, il Papa, riportò il Ducato di Ferrara sotto il dominio dello Stato della Chiesa, fece il colpo gobbo. E quindi chiaramente cosa successe? Come era ovvio, molti musicisti ferraresi iniziarono a spostarsi e andarono a Roma, a finire a Roma. Così fu anche per Frescobaldi, e insieme anche a Luzzaschi, peraltro, soggiornarono a Roma, ma in realtà non per tantissimi anni, diciamo tra il 1598 e il 1601, però insomma in un momento in cui il centro si era spostato là, e anche loro chiaramente spostarono la loro produzione a Roma. Frescobaldi ci arrivò nel 1601, in realtà gli altri ci arrivarono un po' prima, insomma più o meno era quello, e fu nominato organista della Basilica di Santa Maria in Trastevere nel 1607, e insomma iniziò il percorso che da Ferrara lo portò a Roma. Poi vedremo, si spostò di nuovo in altre città e poi ritornò a Roma, dove peraltro poi morì il 1 marzo del 1643. Ci ascoltiamo subito un brano, così forse non perdo definitivamente la voce, e proprio per organo a questo punto, visto che l'abbiamo detto, Canzone prima in particolare. È una canzone che lo sentirete, molto scarna anche volendo, insomma si tratta di organo, ma non ancora quello che poi abbiamo sentito con Bach o con altri, ma insomma vedete voi, sentitevela e poi giudicate. Thank you. il nostro Frescobaldi nel 1608, appunto quando era a Roma, quando si trovava a Roma, pubblicò il suo primo lavoro completo, una raccolta di 19 madrigali a 5 voci, quindi insomma un repertorio vocale, ma insomma poi vedremo, non è che poi nel dipanarsi della sua vita Frescobaldi non ha mai scritto per voce, anzi tutt'altro, anche se poi lo ricordiamo più che altro per altre cose. Mentre tornava a Roma in uno dei suoi viaggi, fece tappa a Milano. E a Milano, Zac, già che c'era, pubblicò un altro libro, il primo libro delle fantasie a quattro. Quindi inizia a pubblicare, chiaramente vi ricordo, al tempo, siamo nel 1600, pubblicare un libro di canzoni non era proprio una cosa banale, voleva dire che comunque se lo facevi era perché avevi alle spalle qualcuno che ti dava dei soldi per farlo e soprattutto eri in grado anche di convincere che la tua musica valeva la pena di essere stampata e valeva la pena il grosso sforzo appunto di stamparla e di incidere delle lastre di rame generalmente per poi pubblicarla. Ovviamente poi questo era il primo passo per poi sperare che qualcuno la eseguisse anche. Frescobaldi torna a Roma e continua nel suo, diciamo, nella sua scalata in qualche modo, comunque nel suo paziente lavoro e succede al concittadino Ercole Pasquini come organista della Cappella Giulia a San Pietro, la Basilica di San Pietro, quindi chiaramente insomma si passa da Trastevere a San Pietro. E sempre appunto nel 1608 siamo ancora. E entrò in contemporanea alle dipendenze del marchese Enzo Bentivoglio, che era arrivato a Roma come ambasciatore di Ferrara, e però in realtà tra i due non correva proprio buon sangue, non si trovarono molto, diciamo. Piano piano il rapporto si ruppe e la cosa non andò molto bene. Un paio d'anni dopo, tra il 1610 e il 1611, entra Frescobaldi al servizio del cardinale Pietro Aldobrandini, che insomma il personaggio piuttosto importante, ecco, per il barocco in particolare, non soltanto musicale ovviamente, ma in generale come corrente culturale. E nel frattempo però, dopo la morte del Papa, di Clemente VIII, la fortuna del suo patrono stava iniziando a declinare, quindi insomma si ritrova. Anche perché insomma era San Pietro, ricordiamocelo, e Frescobaldi inizia un po' un periodo un po' brutto di incertezze. Nel 1614 riesce a negoziare con Gonzaga, con Ferdinando Gonzaga, la sua assunzione al servizio della corte di Mantova. Quindi arriva a Mantova e suona alla presenza del duca di Mantova nel 1615, altro centro importante, ovviamente Mantova per quel periodo. Ma non, questa cosa non andò molto, cioè sì, va bene, suona con loro, ma la cosa non insomma, o non riscosse tutto questo interesse, o comunque non si trovarono, fatto sta che non venne assunto stabilmente. Quindi abbastanza così, con la coda tra le gambe, Frescobaldi ritorna a Roma. E fondamentalmente riesce a ricavare da questa sua avventura a Mantova qualcosa che comunque non faceva schifo, però era probabilmente meno di quello che lui sperava, ovvero la pubblicazione del primo libro di toccate, che però in un'edizione molto ricca pare, insomma, piuttosto prestigiosa in realtà, almeno quello se l'era raccattato. E dicevamo che con Bentivoglio, col marchese Enzo Bentivoglio, i rapporti non erano ottimi e neanche in realtà con Aldo Brandini fu proprio ottima la cosa, però gli rimase comunque fedele, rimase a servizio Frescobaldi fino alla morte del cardinale nel 1621. Nel frattempo continua a lavorare a San Pietro e occasionalmente viene invitato come organista in altre chiese, insomma, ovviamente continua la sua attività anche nel resto di Roma e nelle altre chiese. Nel frattempo insegnava, come spesso succedeva ovviamente, essendo anche molto rinomato come clavicembalista e come organista, insegnava clavicembalo e canto anche. All'interno ovviamente delle famiglie più nobili, insomma, veniva chiamato per insegnare ai vari rampolli della nobiltà i rudimenti perlomeno e l'arte del canto e del clavicembalo. Ora io vi farei ascoltare un altro brano, Ricercare Terzo. Questa volta lo sentirete un pochino più. Altri tipi di musiche, cioè scusate, un altro tipo di strumenti. Beh, insomma, lo vedrete, dai, lo sentirete, è inutile che vi dico altro. Quindi Ricercare Terzo, sempre di Girolamo Frescobaldi, ovviamente. Thank you. Radio Wombat, la fuga del gatto, come ovviamente forse vi sarete accorti, vi ricordo i social Wombat, prima di dimenticarmene, il sito wombat.noblogs.org, dove trovate un po' tutte le coordinate ovviamente del Wombat e le trasmissioni. Fra l'altro stanno nascendo un po' di nuove trasmissioni, lunedì troverete pronta per voi una nuova trasmissione, la trapunta, in più altre cose, insomma, si stanno muovendo. Nelle prossime settimane avrete delle belle sorprese e potete sapere tutto ciò guardando appunto sul sito nella parte che riguarda le trasmissioni. Lì c'è un po' scritto quali sono le trasmissioni che resistono e che insomma vanno avanti su Radio Wombat, quelle che stanno per nascere, quelle che sono già nate da poco e soprattutto gli orari per ascoltarci in diretta, perché vi ricordo, a noi ci fa sempre molto piacere se vi collegate in diretta. Poi certo uno arriva un'ora dopo, vabbè, però ecco le altre trasmissioni che sono più puntuali di me, ecco, ma se vi trovano pronti, bellini lì ad ascoltare, ecco, ci rendete felici perché almeno ci sembra di non parlare al vuoto. Torniamo però a Frescobaldi. Ah no, scusate, non torniamo a Frescobaldi perché vi ho detto solo il sito, ma vi avevo promesso i social Wombat, che sono un po' di più, in particolare la mail posta wombat@insiberia.net. Gli altri social cosi io non ve li dico mai perché mi fanno schifo, quindi ve li cercate da soli. E poi però vi ricordo la frequenza in onde mediocri, la 1359, che ormai sono diventate le onde belline, come ci dicono alcuni nostri ascoltatori e aiutanti, e 13:59 in onde medie, quindi ovviamente in AM, se siete così fortunati e fortunate da raggiungere, da essere raggiunti dal nostro Wombat segnale. Torniamo però adesso, visto che ho poca voce, non la devo sprecare, torniamo al nostro Girolamo. Nel marzo del 1628 il Granduca Ferdinando II de' Medici visita Roma e lì prende i contatti con Frescobaldi, che non è scemo, se lo riesce subito a ingraziare, e gli dedica il primo libro delle canzoni a una a quattro voci, che è peraltro la sua unica raccolta di musiche per gruppi strumentali. E fra l'altro una delle cose più interessanti in realtà che ha fatto. A quel punto, appunto, una cosa, come dire, una mano lava l'altra, e do ut des, ottiene un impiego come organista del Granduca a Firenze, e retribuito peraltro con uno stipendio, pare, molto elevato. Queste cose si sanno e peraltro sono le uniche cose che ci permettono di ricostruire un po' la vita di questi musicisti, perché si ritrovano, oltre cronaca di concerti e racconti, eccetera, si ritrovano i dati di retribuzione, gli stipendi, dati fiscali in qualche modo, ecco, diciamo, oppure economici perlomeno, di transazioni economiche, e queste ci permettono di sapere quantomeno risalire alle date e ai periodi dove si erano spostati i musicisti e cosa avevano fatto. Nel 1630, quindi sempre nella seconda metà del 600, pubblica due libri di arie musicali. E insomma, qua inizia a giovarsi sia del clima culturale e musicale che c'era a Firenze in quel periodo, sia anche di un po' una cassa di risonanza, probabilmente, che faceva sì che le opere di Frescobaldi iniziarono ad essere veramente conosciute. E le sue musiche iniziano a essere considerate un bel po' e utilizzate nelle situazioni un po' più importanti. Detto ciò, comunque non rimane a Firenze per moltissimo e nel 1634 se ne va e torna a Roma, richiamato dal cardinale Francesco Barberini, anche lui un altro protagonista del periodo barocco, nipote del nuovo Papa Urbano VIII. A questo punto, però, visto che era passato da Firenze, era diventato un po' famoso e insomma aveva avuto uno stipendio decente, anzi più che decente, adesso Frescobaldi può in qualche modo esigere un salario ben più adeguato alla sua fama, e quindi insomma anche a Roma lo trattano un po' meglio. Riprende il suo posto di organista alla Cappella Giulia e E i Barberini, fortemente impegnati nell'allestimento di opere, presso il Teatro Barberini, alle Quattro Fontane, pare che in maniera un po' strana non coinvolsero però il Frescobaldi nelle loro rappresentazioni. Però, detto ciò, comunque lo facevano partecipare alle accademie e, insomma, in qualche modo i suoi servizi riuscì comunque a renderli anche se non a teatro. Una delle ultime descrizioni di una esecuzione di Frescobaldi ci arriva dal musicista francese André Maugard. Abbiamo detto prima che questi sono un po' i pochi documenti che ci permettono di ricostruire in qualche modo la storia della musica antica. Nel celebre libercolo, diciamo così, Réponse faite à une curieuse. Celebre ovviamente, penso per il tempo, perché noi ovviamente non sappiamo bene di cosa si tratta. Questo André Maugard racconta di un concerto quaresimale a cui assistette nel 1639 presso l'oratorio del Crocifisso. E lì vi erano eseguiti mottetti e oratori in latino combinati a brani strumentali. L'organico comprendeva un organo, due o tre violini, due o tre arciliuti e una lira. Oltre, naturalmente, a un grande clavicembalo suonato dallo stesso Frescobaldi. E gli strumenti alternavano brani concertati a soli improvvisati. E in particolare Maugard fu molto impressionato dalla maniera del cembalista, che a detta sua esibiva ogni sorta di invenzioni sopra delle note ferme dell'organo, cosa che, a cui adesso siamo piuttosto abituati. Grazie, insomma, a musicisti venuti dopo, ma al tempo non era proprio una banalità, come dire, ecco, insomma, si trattava di qualcosa di abbastanza innovativo e anche volendo un po' sperimentale, ecco, si potrebbe dire. Quindi, ahimè, Frescobaldi morì a Roma dopo una breve malattia, come dicevamo prima, il 1 marzo del 1643, e fu sepolto nella Basilica dei Santi Apostoli. Un altro brano vi faccio ascoltare, il penultimo di stasera, è quello un po' più lungo, sono 9 minuti circa. La toccata prima, tratta dal primo libro di toccate di intavolatura per cembalo e organo, e pubblicato proprio a Roma nel 1615. Thank you. Thank you. Abbiamo parlato finora della vita di Gerolamo Frescobaldi, un po' delle sue peripezie, non troppe, devo dire, rispetto a altri musicisti suoi contemporanei, ma prima di lasciarvi all'ultimo brano della scaletta di oggi, vi racconto un po' dello stile e un po' dell'importanza che ha avuto anche la musica di Frescobaldi, in particolare lo stile della musica strumentale, perché al tempo chiaramente in quell'ambito musicale e in quel momento culturale, fino ad allora grossa importanza, forse la più importante importanza era stata data alla musica vocale. E Frescobaldi con la sua musica strumentale vuole evocare gli affetti, cosa che dal Rinascimento in poi, insomma, si cercava moltissimo, si ricercava anzi, attraverso il suono. E si rifà Frescobaldi alle tecniche della cosiddetta seconda pratica. Seconda pratica che viene definita così da Claudio Monteverdi. Che insomma in qualche modo conia questa definizione e anche questo stile. Seconda pratica in contrapposizione alla prima pratica, che fondamentalmente distingueva il modo di scrivere di musica di Monteverdi e Caccini, per esempio, altri, da quello praticato da, per capirsi, Palestrina, per Luigi da Palestrina, che invece appunto si rifaceva alla prima pratica. Ovviamente, quando si parla di musica antica, molto spesso c'è questa distinzione prima e dopo, nuova scuola, vecchia scuola, prima di, dopo di. Ecco, anche in questo ambito andò esattamente la stessa, nello stesso modo, e questa seconda pratica, appunto, di cui Monteverdi in qualche modo è l'esempio più conosciuto, incoraggiava una maggiore libertà di scrittura rispetto a delle regole invece molto rigorose di limitazione delle dissonanze che invece erano previste nella prima pratica. Per intendersi, oltre a Palestrina, forse i come dire, i più ostinati e i più estremi su questo tipo di pratica furono i fiamminghi, di cui abbiamo parlato peraltro nella scorsa puntata e in altre occasioni. Tutto ciò, questa maggiore libertà, diciamo, di scrittura contribuì ad emancipare in qualche maniera la musica strumentale e portarla a un livello di importanza paragonabile alla musica vocale. Nella musica di Frescobaldi, ora, ovviamente, quando si tratta di musica vocale va bene, ok, c'è la voce anche lì e lo vedremo, c'è tutta una sua complessità. Ma invece nella musica strumentale di Frescobaldi, virtuosismi che in altri ambiti, in altre composizioni verrebbero fatti eseguire alla voce, vengono invece espresse dagli strumenti, cosa che adesso è estremamente ovvia, ma nel tempo non lo era assolutamente. E gli strumenti fondamentalmente dovevano essere al servizio della voce, invece in questo caso è un po' gli strumenti ritrovano una loro dignità, una loro importanza. Nelle toccate, nelle partite, Frescobaldi inserisce delle scale ascendenti e discendenti, oppure dei trilli, degli abbellimenti molto importanti, e cose che normalmente si facevano fare alla voce, che erano riservate alla voce, invece lui li fa fare agli strumenti, inframmezzati invece da momenti accordali e passi in stile imitativo, che peraltro Frescobaldi ci tiene molto a questo stile. Appunto, il cosiddetto stile imitativo che poi lo renderà anche molto famoso tra altri compositori che dopo si sono rifatti a lui a loro volta. In questo modo, insomma, Frescobaldi quello che vuole fare attraverso la musica strumentale è quella di suscitare delle emozioni, suggerire delle emozioni e in qualche modo si ispirava ai canti italiani che appunto esprimevano con più note per ogni sillabe, qualcosa di che ne so, sentimenti più variegati rispetto alla monodia classica, insomma, medievale, per capirsi, per fare un esempio estremo. La stessa cosa lui voleva fare con gli strumenti, insomma, ci riesce, direi, piuttosto bene. Quindi queste varie composizioni hanno un po' tutti i virtuosismi che in genere venivano richiesti solo alla voce, vengono richiesti invece questa volta anche agli strumenti. E lo noterete perché ora, per adesso, gli ascolti che abbiamo sentito erano ascolti in realtà piuttosto scarni a uno strumento, o nel caso invece del secondo ascolto, quattro, ma insomma, tutto sommato con una complessità poco sottolineata. In realtà ci sono molti più brani di cui avrei potuto, insomma, che avrei potuto farvi sentire, magari in qualche altra nuova puntata ve li propinerò, dove ci sono appunto una complessità e una divisione, tra l'altro, molto rigorosa in parti nel senso non strumentale, ma che all'interno della stessa composizione ci sono momenti molto diversi tra loro e molto complessi. Sezioni quindi contrapposte molto diverse tra loro, cosa che insomma era molto strano, molto innovativo e molto interessante peraltro, e influenzò poi i compositori successivi. Ultimo brano di oggi, a dispetto di quello che ho finito appena adesso di dire, insomma, dell'importanza degli strumenti, invece un brano vocale, perché anche per la musica vocale, insomma, non Frescobaldi non scherzava e ha scritto delle cose bellissime. In particolare quella che ho scelto così è un'aria di Passacaglia che si intitola Così mi disprezzate. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 6:30, se non arrivo troppo in ritardo, ma voi continuate a sperarlo, così mi date fiducia che lo devo fare e mi sostenete. Però comunque i programmi di Radio Wombat continuano e riprendono poi domani in particolare, ma vi teniamo compagnia anche con le repliche e con la bobina. E quindi a domenica prossima e buona serata a tutti e tutte. Ciao ciao! Thank you.